快乐假期现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。用年轻的心演绎古典，古典中的流行 Pops 音乐。 Alas, my love, 北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天3点15点播出。 And I have loved you so long, my love, my lady green sleeves。 欢迎收听歌舞剧场，我是你的朋友古月。在今天的节目中，请欣赏威尔第歌剧《茶花女》的全剧录音，由安吉雷斯、莫拿蒂等演唱，塞拉芬指挥罗马歌剧院演出。 Yeah, che vi turba sta meglio ha in tonta guisa ucciderete averve d'uopo cura dell'esser vostro e non potrei o se mia foste custode veglierei per vostri soavi vivi dite a posti al cuore perché nessuno il mondo ama nessuno tranne solio io ero sì grande amor dimenticato mio vivete con voi va un cor un cor sì forse e a che lo richiedete o se ciò fosse non potreste allora cegliar dite davvero io non vi inganno da molto e che mi amate ah sì da un anno un dì felice e terea mi varerà sei nante e da quel dì tremante vissi d'ignoto amor di quell'amor quell'amor che palpito dell'universo intero misterioso misterioso altero croce croce delizia delizia al cor. Ah, se ciò vero concedemi sola mi sta di un povero amore questo mi so un così meno il tuo amore io sono franca scelua a cercare amore misterioso Thank you.

Oh, sì, quasi in ciò, io vivo in ciò, ma l'universo in memore, io vivo quasi in ciò, ah sì, io vivo quasi in ciò. Io vivo quasi in ciel. Annina, donde vieni? Da Parigi. Chi te il commise? Fu la mia signora. Perché? Come sento? Lo spendio grande a viver qui solinchi. E tacevi? In cui silenzio imposto. Imposto? Orba bisogna? Mita Luigi. Orbanne andrò a Parigi. Questo colloquio non sappia la signora. Il duca valgo a riparare ancora. Ah. L'avvenir domanda or qui te siccome un angelo, Iddio mi dia una figlia, se Alfredo nega riedere in seno alla famiglia, la madre amante giovine, cui sposo andar dove Angel con

chiamarlo, ditegli. Non crederò. Partite. Seguirò me. Allor. Qual figlia, qual figlia m'abbracciare, forte così sarà. La prima idea presa, afflita il tre ogni dire, a sua confortante la volete. E pensate, far passio, lo generò. Morrò, morrò la mia memoria, non fia che i maledica, segni e beni orribili, e vi sia chi al meglio la generosa vivere lieta voi dovrete perciò di queste lacrime dal cielo un giorno avrete. Conosco il sacrificio mio consumo il sacrificio sarà del vostro cuore d'una pria così nobile sarete fiera allora sì, sì, sì conosco il sacrificio fiera. Io consumo il amore fiera allora di il sacrificio, premiate il sacrificio, sarà del vostro cuore. Oh sì, un'opera così nobile, un'opera così nobile, sarete fiere. Oh, sospiro, sospiro. Vai, cor mio, ardite. Non ci vedrem più forse. Siate felice. Addio. Addio. a chi scrivevi? A te. Dammi quel foglio. No, però. Mi perdona, sono io preoccupato. Però. Giunse mio padre. Lo vedesti? Ah no, se ve l'ho scritto mi lasciava. Però l'attendo, t'amerà invaderti. E qui non mi sorprenda, lascia che m'allontani. Tu lo calma, ai miei rispondi mi gemerà, di mese più non ne vorrà. Saremo felici, saremo felici, perché tu mami, Alfredo, tu mami, non è vero, tu mami, Alfredo, tu mami, Alfredo, non è vero. Quanto, perché piangi? Di lagrime a me a tuo, ma son tranquilla. Lo vedi, ti sorrido. Oggi forse più non verrà mio padre. La signora è partita, la temeva un canesse, e sulla via già corre di Parigi, Annina pure prima di lei spariva. Il so ti calma. Che vuol dir ciò? Ma forse d'ogni avere ad affrettar la perdita, ma Annina lo impedirà. Qualcuno è nel giardino, chi è là? Il signor Germont. San io. Una dama da un cocchio per voi di qua non lunge mi diede questo scritto. Di Violetta, perché son io commosso? A raggiungerla forse la m'invita. Io tremo, oh ciel, coraggio, Alfredo, al giungervi di questa faglia. Ah! Padre mio, mio figlio, oh quanto soffri, oh tergi il pianto, ritorna di tuo padre. Orgoglio e vanto. Cancellò, i cor ti cancellò, i pro senza i mari suol, al natio fulgente sol, qual destino ti furò, qual destino ti furò, al natio fulgente sol, o rammenta pur nel duol, ora sol su te splendere ancor qua, e che pace ora sol su te splendere ancor qua. Io mi guido, io mi guido, io Oh, non ne so. Ma che temete? Dovremo sempre temere. del barone. E fra noi mortal bestiare, se cadrà per mano mia, un sol colpo vittoria, un sol colpo vittoria, con la manza il protettore. Va derisce tal sciagura, ma se fosse l'uccisore, e con unica sventura io m'avvento a me fatale. La mia morte, che ben pare, departete, e se l'istante, partirò ma giura in ante che l'avunque seguirai, seguirai i passi miei. Ma no, già mai, no, già mai. Ho sciagurato, scorda un nome, che infamato, va mi lascia, sulla verità, facendo il giuramento sacro feci. A chi? Dillo, chi potea? A chi dritto pienna mea? Fu tu fol? Sì! Dunque l'ami! Ben, l'amo! Or tutti a me! Yeah. Thank you. vi sentite. Soffre il mio corpo, ma tranquillo. Stanotte e più tranquillo il sonno. Coraggio dunque, la convalescenza non è lontana. Oh, la bugia pietosa ai medici è concessa. Addio, a più tardi. Non mi scordate. La tisi non le accorda che poche ore. Thank you. Thank you. fai? Non si affanni, non pensa avrai. Ma tua salute. Cielo, è ver, la vedi, padre mio, di più non la cerchi, troppo rimorso l'alma mi divora, quasi fuori la taglia, oggi ho detto, ama il cauto vegliardo, il mal che io feci, ora sol vedo. Gli spasimi del dolore in me.